Il tuo sguardo da prepotente sono i soliti argomenti che non discuterò. Le tue mani, le tue dita bugiarde e lunghe, anche questi sono argomenti di cui non parlerò. Ma le braccia volitive, avvolgenti, forti, sono le cose che ad occhi aperti fanno sognare di te. L'espressione del tuo sorriso mi trasporta all'improvviso, dove il cielo è più blu. E lassù, e lassù, ci sei tu. Non è colpa mia se non so. Evitarlo non so, e perciò